occhi aperti, ballerina. Sei favolosa, in cameretta giochi ad essere famosa. Balli fino a sera, musica leggera, niente regole, olè, olè. Ma se cadi fa male, è facile sbagliare, devi sapere che, olè, olè. Danza, danza, danza, niente è impossibile. Il mondo è una stanza, che danza incredibile. Bambina, quando ridi con tua madre che cucina. Dammi la mano, è solo insieme che si vola più lontano. Balli fino a sera, musica leggera, niente regole, olè, olè. Ma se cadi fa male, è facile sbagliare, devi sapere che danza, danza, niente è impossibile. Il mondo è in una stanza, che danza incredibile. Balliamo, ancora una canzone. Balliamo, sei una su un milione. Danza, danza, danza, niente è impossibile. Il mondo in una stanza, che danza incredibile. Balliamo e...